Trump parla a Davos, impeachment, atto secondo, le istruzioni per l'uso, Cina, il nuovo virus che fa paura. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Tonight, President Trump's legal team revealing how they plan to defend the president. They say, quote, the president did absolutely nothing wrong. The outbreak of a new viral pneumonia in China is on the move. A man in his 30s arrived in Tokyo with a cough and high fever. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori a una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Ricca la pagina oggi dedicata agli avvenimenti internazionali. Stanno succedendo cose, siamo qua pronti a raccontarvele. Con noi, con me, ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani in regia. Con me naturalmente ci siete anche voi col telefonino, WhatsApp o SMS al 349-238-6666 per porre domande o commentare i temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Ancora una volta ricordo le pochissime regole ammesse in questa trasmissione: non ammetto turpiloquio, non ammetto commenti razzisti, per il resto ogni domanda vale e speriamo di poter dare risposte appunto alle vostre questioni. I due grandi temi sono, da un lato, un Donald Trump che diserta il secondo atto della procedura di impeachment, è andato a Davos al World Economic Forum. Cercheremo nel dettaglio, non dico di fare un'esegesi del suo discorso, però ha toccato dei punti importanti, sta affilando le armi, questo è evidente, e le armi sono belle solide, funzionano perché l'economia sta andando bene. Insomma, Donald Trump si sta mettendo sicuramente in una posizione di forza. Poi cercheremo di spiegarvi meglio come seguire questa seconda fase dell'impeachment. Non è esattamente banale, non è intuitivo, abbiamo provato a studiare bene questa seconda fase, cercheremo di darvi uno strumento in più per leggere l'attualità internazionale. Infine, questa nuova epidemia in Cina, che cosa il regime di Pechino ha imparato dall'altra epidemia, quella della SARS, e come una grandissima nazione come la Cina, una potenza economica benché leggermente in declino, gestisce questo tipo di crisi. La Cina certamente non è campionessa di trasparenza, eppure il presidente Xi Jinping ha detto ai suoi funzionari a tutti i livelli: attenzione, non ripetete l'errore fatto nel 2003 con la SARS, non si deve coprire nulla. Vedremo con quali esiti e con quali effetti. Dicevo, 349-238-6666, ma anche Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Ma adesso alle 16 e 11 minuti spaccati, termometro internazionale. Il primo dossier che andiamo a riverificare è quello libico, lo avete sentito anche dal GR, c'è stata una dichiarazione da parte dell'ambasciata statunitense, si è detto: riaprite per favore i pozzi petroliferi in Libia. Ne abbiamo parlato con dovizia di particolari proprio ieri. Non è soltanto l'unico appello, l'unica voce che si è fatta sentire, perché proprio nelle ultime ore ha parlato anche l'inviato speciale dell'ONU sulla Libia, Ghassim Salamé, il quale ha sostanzialmente detto che i due contendenti, quindi Serraj e Haftar, sono contrari all'invio dall'esterno di truppe militari di interposizione, non vogliono cioè militari stranieri sul terreno libico. E ancora una volta duole constatare come quell'entusiasmo che era uscito parziale dalla conferenza di Berlino stia evaporando giorno dopo giorno, perché al momento, come ricordavamo anche ieri, si continua a combattere, e pur con una, come dire, intensità minore dei giorni scorsi, e soprattutto si sta avvicinando a un punto di, chiamiamolo, di non ritorno per ciò che riguarda la produzione di petrolio libico. Il punto qual è? Che avendo chiuso anche tutti i porti di uscita, Brega, Ras Lanuf, Ashdabi, eccetera, quelle installazioni hanno una capacità di stoccaggio molto molto limitata, quindi la produzione di petrolio potrebbe veramente precipitare poi nel giro di pochissime ore. Vedremo se il generale Haftar risponderà a questi appelli. Tra i tanti attori che vi abbiamo raccontato nello scacchiere libico ce n'è uno che si è ritagliato a suon di gomitate una presenza e una rilevanza davvero notevole, inimmaginabile forse fino a qualche tempo fa, e sto parlando della Turchia di Erdogan. Ebbene, a riprova di quanto il sultano, così viene spesso soprannominato sui giornali richiamando una copertina dell'Economist, che come dire, raccontava un nuovo strapotere turco, rifacendosi evidentemente al passato. Ebbene, a riprova di questa nuova rilevanza sul piano internazionale, proprio Erdogan ha fatto sapere che la Somalia gli ha fatto un invito formale e ufficiale per andare a esplorare le acque somale in cerca di petrolio ed eventualmente poi esplorare anche i fondali dei mari della Somalia. La presenza in Somalia, come ricorda molto bene Al Jazeera, risale almeno al 2011, al tempo della gravissima carestia, quando i turchi iniziarono ad inviare anche aiuti, ma sapete come molto spesso anche gli aiuti umanitari possono essere una formidabile leva e strumento di politica estera. Andiamo in Scozia perché voi sapete che con la Brexit che si avvicina oramai c'è sempre il grandissimo punto di domanda scozzese. Ebbene, c'è un'esclusiva del quotidiano The Scotsman. Entro la prossima settimana il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon illustrerà i piani per un nuovo referendum sull'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Attenzione che questo annuncio è una, come dire, una contromossa politica, perché arriva a pochi giorni dal rifiuto di Boris Johnson, che aveva negato una richiesta avanzata sempre dal Parlamento scozzese per avere più poteri e una maggiore autonomia. State già twittando, scrivendo, scusate, al 349-238-6666 su quello che è il dossier libico, ve ne darò conto tra pochissimo, segno che comunque condividete con noi l'importanza di aprire questa nostra trasmissione molto spesso con quella che è la situazione in Libia. Adesso però vi devo dare conto di un studio, una ricerca che ci arriva dalla Francia. È stato commissionato dalla Fondation pour l'Innovation Politique e l'American Jewish Committee. È un sondaggio che rivela come un ebreo su tre nel territorio francese si senta minacciato. Insomma, lo studio rivelerebbe l'angoscia della comunità ebraica in Francia. Il presidente Macron dovrà fare una visita in Israele. Voi sapete, in passato, negli anni scorsi, c'è stata, dopo un crescente crescenti attacchi verso gli ebrei in Francia, ci sono stati quasi, come dire, dei colpi di fioretto diplomatici, perché Israele aveva invitato chiaramente gli ebrei francesi a andare in Israele, a trasferirsi se non si sentivano sicuri in Francia, e i francesi avevano vissuto questa ingerenza, questo invito, come una vera e propria ingerenza appunto nella politica interna francese. Detto ciò, è evidente che quantomeno in Francia l'allarme antisemitismo è molto molto alto. Lo studio esce proprio quest'oggi, in cui è iniziata una lunga settimana di celebrazioni, di commemorazioni per l'anniversario di Auschwitz. È di lì che vi porto immediatamente con la voce di Raffaella Candra, inviata di Radio 24, ma soprattutto con una musica, questa. La musica è drammatica, è forte, molto intensa, molto emotiva. Le immagini lo sono anche. Buttate uno sguardo ai social di Raffaella Calanda, ai nostri, Nessun Luogo 24. Raffaella, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo è Lontano. Ciao Giampaolo, a te e ai nostri ascoltatori. Ecco, dicevo, buttate un occhio ai social, perché hai fatto quella breve ripresa video e l'immagine è icastica, è fortissima, perché dentro uno di quei vagoni merci su cui venivano stipati i disgraziati destinati al concentramento e poi alla morte, si sono seduti dei musicisti, dei pianisti, e devo dire che l'immagine è veramente toccante e molto forte. Ad Auschwitz è iniziata una settimana intensa. Raffaella Calandra, cosa sta accadendo in questi giorni? Sì, proprio qui dove una pianista ha tra l'altro suonato musica composta da musicisti ebrei uccisi nel campo di Auschwitz, è già allestito un enorme tendone bianco. Oggi qui è in arrivo Nancy Pelosi e oggi comincia appunto questa lunga settimana di commemorazioni in vista del 75esimo anniversario dalla liberazione del più grande campo di sterminio lunedì prossimo. Intanto però già da domani e poi dopodomani a Gerusalemme decine di capi di Stato, compreso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si ritroveranno per un momento che non è soltanto di commemorazione, ma che è soprattutto di riflessione su dati come quello che hai ricordato tu in apertura, ossia sulla crescente sensazione di insicurezza vissuta dalle comunità ebraiche in Europa, perché sono sempre di più le famiglie che decidono di lasciare i paesi missili europei diretti ad Israele dopo aver subito attacchi, dopo aver subito attentati come quello di Halle in Germania, dopo una successione di episodi che confermano come l'antisemitismo sia purtroppo in crescita un po' ovunque. Sì, fra l'altro adesso, come dire, mettendo il grand'angolo, come amiamo dire qui, a nessun luogo è lontano, molto spesso, e sto parlando della Germania dove tu hai lavorato anche di recente, gli attacchi agli ebrei sono arrivati da gruppi di estrema destra neonazisti, dichiarati a tutti gli effetti. Facciamo sentire la voce di una persona, Raffaella Calanda, poi ci spieghi meglio chi è che parla. Ich war 10 Jahre in der Neonazi-Gruppe und bin dann durch meinen Konflikt in der Universität. Raffaella Calandra, per chi non padroneggia perfettamente il tedesco, chi è che parla? Ecco, quella che state sentendo è la voce di Lutz Lang, divenuto Jonathan Langen, che, come avete sentito come prima frase, ci ha raccontato: io sono stato per 10 anni in un gruppo neonazista. Un berlinese oggi poco meno che quarantenne che si è avvicinato ad uno dei tanti gruppi clandestini di chiara, esplicita militanza neonazista. Poi ci ha raccontato anche come, che anche questo è interessante, è avvenuto questa forma di arruolamento, per poi ad un certo punto cominciare a farsi delle domande, cominciare a studiare, perché spesso è anche proprio l'ignoranza che porta ad alcune espressioni, diciamo, anche proprio di adesione, come in questo caso a appunto posizioni neonaziste, fino alla abiura di quelle sue posizioni e a essere oggi un cittadino di Tel Aviv e ad andare in giro con la kippah in testa, divenuto testimone di come sia anche semplice passare a provare dell'odio nei confronti degli ebrei, nei confronti dei diversi, e come sia semplice anche essere arruolati da questi gruppi neonazisti che solo in Germania contano ben 12.700 persone, secondo ultimi calcoli delle forze dell'ordine tedesche, pronte anche ad azioni di violenza, come abbiamo potuto anche personalmente raccontare e scoprire in un viaggio fatto nell'ex Germania dell'Est, che è proprio il cuore forse di più drammatico di questa di nuova diffusa emergenza neonazismo in Germania. Sì, Raffaella Calandra, peraltro stiamo preparando insieme uno speciale, no, di Nessun Luogo Lontano, che cercherà proprio di radiografare, mappare questo fenomeno, secondo alcuni sottovalutato, secondo altri sopravvalutato. Cercheremo di dare i numeri e racconteremo, come sempre e al solito, come facciamo qua, storie. Grazie mille, Raffaella Calandra, era in diretta da Auschwitz, per essere stata con noi. Alla prossima. Ciao Gianpaolo, grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao. (349) 238-6666. Per questa prima breve pagina di Nessun Luogo Lontano, lo ripeto, stiamo preparando una puntata speciale, mentre ci avviciniamo alla giornata della memoria, per raccontarvi questo fenomeno. Perché non parlate dell'antisemitismo islamico? Ne parleremo sicuramente, non c'è, rassicuro gli ascoltatori che non vi è nessuna autocensura, mentre mi sento di stigmatizzare un ascoltatore che con un linguaggio che non ripeterò, appunto, punta il dito verso la comunità ebraica. Io ricordo che mi sembra anche particolarmente naif farlo, ci sono i numeri di telefono qui nel mio WhatsApp, e quindi quando si supera un certo limite anche lessicale e verbale, sappiate che esiste anche la giustizia, esiste anche la magistratura. Parla anche del conflitto palestinese, sì, parlo molto spesso del conflitto palestinese. C'è chi dice: il giorno della memoria deve insegnare in Europa i smemorati, a volte infatuati di mostri. Spero che ricordi anche una certa politica, così dice un ascoltatore, una certa politica israeliana, di quanto sia facile diventare carnefici di altri deboli. Insomma, tema molto controverso qua. Per onestà, per tutta onestà, mi sembra che si stia allargando moltissimo l'argomentazione di alcuni ascoltatori. Controllare i gruppi nazisti è doveroso, ma quali paesi vogliono l'eliminazione di Israele? Così fa eco un altro ascoltatore. segno che evidentemente ci sono. Quel grand'angolo a cui facevo riferimento prima è davvero molto molto ampio. Ci torneremo, questo non c'è dubbio. Intanto do il mio ben ritrovato da questa parte del vetro a Antonio Talia, esperto di Cina, lo ricordo, lo coinvolgiamo da questa parte, no? Smette i panni dell'autore, mette i panni quelli del giornalista e dell'ospite, perché ha vissuto 7 anni a Pechino, esperto di questioni cinesi. Antonio, benvenuto, ben ritrovato. Buonasera Giampaolo, a tutti gli ascoltatori di Nessun Luogo Lontano. Allora, la prima cosa che facciamo è cercare di andare a Wuhan. Le voci che abbiamo sentito sono quelle del mercato del pesce, perché secondo le autorità sanitarie cinesi pare sia avvenuta la mutazione, il salto di specie che sta permettendo a questo nuovo virus, il coronavirus, di passare dall'animale all'uomo. Al di là delle cifre, per il momento piuttosto contenute, si parla di decine di contagiati, 139 nuovi casi, 6 morti se non erro, però correggimi se non sbaglio, se mi sbaglio Antonio Talia, un ultimo caso registrato, se le fonti giornalistiche lo confermeranno, addirittura anche a Taiwan. Dobbiamo forse restituire la giusta misura a quello che sta avvenendo. Allora, dal punto di vista numerico niente di particolarmente diffuso. Allo stesso tempo, però, lo ricordavamo anche ieri, si avvicina la data del Capodanno cinese con un grandissimo numero di cinesi che viaggeranno, controlli negli aeroporti che si stanno intensificando. Che misura dobbiamo dare a questa crisi, secondo te, Antonio Talia? Allora, secondo me ci sono diversi aspetti da tenere d'occhio, senza allarmismi, ma anche senza abbassare la guardia. Come ricordavi, il Capodanno cinese è imminente, questo significa che ci troveremo di fronte a una, anzi alla più grande migrazione di massa che si ripete ogni anno nel mondo. Parliamo di oltre 400 milioni di persone che da venerdì prossimo si metteranno in viaggio in tutta la Cina. Questo ovviamente può in qualche modo diffondere ancora di più questo virus che parte da Wuhan. Ricordiamo che la Cina ha una immigrazione interna immensa. Quello che succede è che dalle zone più rurali ci si sposta nelle grandi città come la stessa Wuhan per lavorare, ma il Capodanno cinese si trascorre in famiglia, è tradizione, e quindi si ritorna nelle proprie case. Ci sono alcuni segnali, da un lato incoraggianti, dall'altro lato anche allarmanti. Sul fronte allarmante c'è una proiezione dell'università di Hong Kong che sostiene che il virus si sarebbe già diffuso in altre 20 città cinesi. Questo perché in qualche modo anche il periodo precedente al Capodanno cinese è già un periodo di spostamenti. Abbiamo appunto, come ricordavi, dei casi che si stanno diffondendo già altrove. Abbiamo un caso che è stato recentemente confermato negli ultimi minuti, è roba di agenzia, a Taiwan. Ci sono dei segnali però incoraggianti che sono soprattutto in qualche modo nella comunicazione che il Partito Comunista Cinese ha scelto in questo caso. Cosa è successo? Che ieri il presidente Xi Jinping ha dichiarato che il virus deve essere contenuto con la massima risolutezza e ha parlato di priorità. Sì. Oggi è arrivata la linea ufficiale. La linea ufficiale è stata dettata da questo organismo, che è la Commissione Centrale degli Affari Politici e Legali, quindi parliamo dell'ufficio politico al vertice di tutte le questioni di ordine pubblico, e la linea è molto precisa. E questa volta, a differenza del 2002-2003, il periodo della SARS, è improntata alla trasparenza massima. Ecco, perché dobbiamo, Antonio Talia, ricordare che nel 2003 in realtà non vi fu questa trasparenza, no? Lo accennavo all'inizio di questa trasmissione. Perché quella volta non ci fu un'immediata reazione e comunicazione a tutti i vertici, anche sanitari? Allora, il 2002-2003 è lontanissimo in termini di comunicazione. In qualche modo in quel periodo il Partito Comunista Cinese pensava ancora di riuscire a gestire una comunicazione come si dice top down, quindi dal vertice verso il basso, di far calare le notizie verso il basso, gestendo la narrativa in questo modo. Questo ha provocato 700 vittime, perché si è cercato di tenere nascosto il virus della SARS. Il virus si è diffuso, i virus non obbediscono alle leggi della propaganda, certamente. No, 8.000 contagiati, questo in tutto il mondo, ricordavi bene, 700 1.200 morti e con un costo, perdonami ti interrompo, perché poi abbiamo cercato di fare anche ricerche un po' storiche, no? Per cercare di trovare in qualche modo un filo rosso. Solo per la Cina l'economia di SARS ha causato perdite per 12-28 miliardi di dollari, negli altri paesi asiatici 12-18 miliardi di dollari a causa del crollo del settore turistico e dei viaggi. E, insomma, c'è un impatto al di là della perdita delle vite umane, assolutamente, però stiamo parlando di miliardi di dollari che vengono persi. Questo, da ciò il motivo della nostra attenzione, no? Anche su quello che sta accadendo adesso. Assolutamente, e c'è un impatto in quella che, ricordiamolo, continua a essere, nonostante i recenti rallentamenti, l'area economica più dinamica del mondo. Quando la Cina si ferma per un virus, ne risentono anche tutti gli altri attori asiatici dell'estremo oriente. Quindi in qualche modo sembra che con questi nuovi inviti il Partito Comunista Cinese, il governo cinese, abbia capito che non può più gestire le cose alla vecchia maniera e quindi che è meglio gestire in tempi di social, e sappiamo che i social cinesi sono ipercontrollati dal partito, bisogna gestire la comunicazione di un'epidemia di questo genere in maniera diversa. E quindi qual è la linea ufficiale? È stato detto: chiunque ponga la reputazione del partito agli interessi del popolo sarà il peggior trasgressore del millennio davanti al partito e davanti al popolo e sarà punito severamente. Sono parole molto dure per dire che cosa? Attenzione funzionari locali che dovete portare dei risultati a Pechino per fare un avanzamento di carriera. Se provate a insabbiare quello che sta succedendo nelle vostre province, nelle vostre città, questa linea qui verrà punita con la massima severità. Peraltro leggevamo anche di arresti di recente per una non meglio precisata diffusione di rumors, cioè di dicerie e di informazioni non corrette proprio riguardante al virus. Scorrendo un po' i social, guardando un po' di immagini, ci restituiscono alcune città cinesi apparentemente spaventate. C'è un gran numero di mascherine al lavoro, addirittura con ampie protezioni. C'è il rischio di un panico, secondo te, che possa propagarsi, serpeggiare? Allora, effettivamente dalle ricerche che abbiamo fatto prima anche su social media cinesi eccetera, quello che appare evidente è che negli ultimi giorni, andando in metropolitana per esempio a Shanghai, prima magari si vedeva una mascherina ogni 10 persone, sì. Adesso negli ultimi giorni una persona su tre si è dotata di mascherina proprio in base alle informazioni che circolano su questo nuovo coronavirus. L'altra questione però interessante da sottolineare è che questa non è l'unica epidemia che sta circolando in Cina in questo periodo. È l'unica epidemia che colpisce gli umani, ma ci sono stati dei casi di influenza suina africana, certo, che hanno portato all'abbattimento di centinaia di migliaia di capi. Quindi in qualche modo il governo deve comunicare, deve isolare il virus. C'è poi una diffusione che ormai va anche all'estero. In qualche modo si sta parlando già di c'è un caso in Giappone, c'è un caso in Thailandia, c'è il caso a Taiwan, ha ricordato. Si parla di controlli serrati a Singapore, in Australia, dove c'è stato anche un altro caso. Sì. E sarà interessante vedere proprio come sarà gestita la propaganda dei prossimi giorni. Sì. Grazie mille Antonio, rimani con noi perché ci sono un po' di domande degli ascoltatori che voglio sottoporti. Piccola pausa, l'informazione finanziaria. Intanto fatemi precisare, avevo detto 6 decessi, sono 4 le morti confermate per il coronavirus, l'ultima, la vittima, 89 anni. L'informazione finanziaria, poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, Nessun luogo lontano, la prima pagina interamente dedicata alla nuova influenza scoperta in Cina. In realtà la notizia di per sé risale ad alcune settimane fa, ma poi il battage mediatico si è fatto più intenso con la quarta morte certificata, con alcuni casi anche al di fuori del territorio cinese, con il regime di Pechino che si sta muovendo, ce lo raccontava molto bene Antonio Talia, in maniera assolutamente diversa rispetto all'epidemia di SARS del 2002-2003. Ovviamente l'angolazione che diamo qui a Nessun Luogo Lontano e soprattutto dal punto di vista degli affari internazionali, della politica estera, ma vi sono un po' di domande. Approfitto di Antonio, della tua presenza qua in studio. Un ascoltatore chiede praticamente cosa accade a chi viene scovato ad avere febbre con gli scanner termici negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, per esempio. Suppongo venga fermato e messo in quarantena per accertamenti, è così? Sì, è quello che sta succedendo, i casi sospetti vengono isolati e messi in quarantena. Allora, poi vi sono altre domande. Ce n'è una che dice: ma com'è possibile che la maggior parte di questi virus così pericolosi arrivino sempre dalla Cina? Allora, non è esattamente così, però è importante sottolineare una cosa. La Cina è davvero un paese immenso e che nella sua immensità ha davvero tutte le gradazioni. Si va da città nelle quali sembra di vivere nel futuro e campagne che sembrano invece completamente immerse nel passato. Una città come Wuhan è una città da 11 milioni di abitanti, e quindi più di Londra e più di New York, e contemporaneamente è al centro però di una zona che è anche molto agricola poi intorno. In queste zone molto spesso il bestiame viene trasportato con tutta una serie di profilassi che non sono esattamente quelle corrette. Tant'è vero che sembra che i casi zero di questo nuovo coronavirus siano stati si tratti di una famiglia composta da padre, figlio e cugino che vivevano tutti insieme nello stesso luogo con il bestiame che poi portavano al mercato di Wuhan. Quindi di sicuro le condizioni delle campagne cinesi, che sono state da sempre uno dei tarli del Partito Comunista Cinese, si riverberano anche in questioni di ordine pubblico e questioni sanitarie. Certamente. Grazie mille Antonio Talia per averci aiutato a chiarire un po' meglio quello che sta accadendo. Lo ripeto, dal punto di vista numerico non c'è motivo di particolari allarmi, e come mi segnalano tanti ascoltatori al 349-238-6666, un paziente di 89 anni che peraltro aveva già particolari complicazioni, una serie di patologie, poteva morire benissimo anche probabilmente per, non dico un banale raffreddore, ma per un'altra infezione. Quello che è allarmante, quello che stiamo cercando di raccontare qui Nessun Luogo Lontano, è anche come il regime di Pechino stia gestendo questa possibile emergenza e le differenze con il passato. Il taglio è questo, evidentemente, un programma di politica estera, e sempre con la memoria che deve tornare al 2002-2003, con quei 700 morti, con quei migliaia di contagi in tutto il mondo, 8.000 circa, ma poi anche con quell'impatto sull'economia forte. Se andate a vedere anche la parte più strettamente finanziaria, già le borse asiatiche hanno risentito di questo aspetto. C'è un ascoltatore che dice: le compagnie farmaceutiche sicuramente ci guadagneranno, c'è qualcuno che sta studiando un virus, vi sono dei laboratori in Cina, e l'ha detto i vertici cinesi, lo hanno già comunicato, che stanno lavorando proprio alla produzione di un possibile vaccino. Detto ciò, direi di chiudere questa pagina e aprirle un'altra. Sostanzialmente quello che è successo è che mentre Trump parlava a Davos, al World Economic Forum, si stava intanto preparando a Washington l'atto secondo dell'impeachment. America is thriving, America is flourishing, and yes, America is winning again like never before. L'America sta prosperando, è fiorente, l'America è di nuovo vincente come mai prima, così ha iniziato il suo discorso Donald Trump a Davos al World Economic Forum. Seguitemi adesso perché il racconto di quest'oggi, di quest'ultima, seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, viaggerà su due binari differenti. Da un lato staremo a Washington per la procedura di impeachment, dall'altra parte salteremo a Davos in Svizzera, perché lì, in questo importante consesso economico mondiale, il presidente ha parlato e ha toccato alcuni punti che cercheremo di analizzare. Buongiorno, ben ritrovato Nessun Luogo Lontano a Riccardo Barlam, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Riccardo, ben ritrovato. Ben ritrovato a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di entrare su quella che saranno soprattutto i gangli più tecnici di questa seconda fase, abbiamo provato a riassumerli. Ascoltali con noi, Riccardo. Dopo il sì della Camera alla messa in stato d'accusa di Trump, si apre oggi il processo di impeachment al presidente USA in Senato. Oggi verrà discussa e messa al voto la risoluzione presentata dal senatore McConnell che riguarda in buona sostanza i tempi del processo. Secondo questa proposta, infatti, l'accusa, formata dai cosiddetti manager dell'impeachment, ovvero 7 deputati Dem nominati da Nancy Pelosi, e la difesa, composta dagli avvocati del tycoon, avranno a disposizione 24 ore a testa in 2 giorni per presentare le proprie argomentazioni. I tempi sono molto stretti. Basti pensare che nel processo di impeachment a Bill Clinton, le parti in causa hanno avuto a disposizione 24 ore, spalmate in 4 giorni, per presentare le proprie tesi. La giuria che ascolterà la versione dei fatti di entrambe le parti è formata da 100 senatori. A supervisionare tutta la procedura vi è il giudice John Roberts, presidente della Corte Suprema americana. Durante il dibattimento, i senatori dovranno ascoltare le argomentazioni presentate da ciascuna parte, rimanendo in silenzio. A questa fase seguiranno 16 ore di domande da parte dei componenti della giuria che verranno poste ad accusa e difesa attraverso lo stesso giudice Roberts, concluse le quali verrà discussa la possibilità di presentare mozioni per chiedere l'audizione di testimoni e la presentazione di documenti supplettivi. Una volta risolta la questione dei testimoni e conclusa la fase dibattimentale, vi saranno le arringhe finali delle due parti e successivamente i senatori potranno emettere il loro verdetto. Impeachment, atto secondo. Ecco le istruzioni per l'uso, mancano però quelle più specificamente politiche. Per questo mi affido a Riccardo Barlan, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Riccardo, partiamo da questa mossa. Donald Trump ha detto: qua ci sono le persone più importanti del mondo, qua intendo a Davos, ma perché devo stare a Washington per un processo farsa? E insomma, una mossa forte, come sempre, da parte di allora, Donald Trump. Lo aveva già fatto Clinton, Bill Clinton nel 98-99, quando si votò la seconda della storia, questa è la terza procedura di impeachment contro un presidente, che a un certo punto cominciò a occuparsi in modo di politica estera in modo più diffuso e decise, per esempio, l'intervento in Kosovo in quel mese. E il punto è che Trump ha tutto l'interesse a distogliere l'attenzione mediatica in questo momento, che è tutta su questa procedura. Comincia oggi alle 7 italiane, alle 13 americane, ci sarà una cerimonia formale in cui verrà, voi avete ricordato benissimo tutto quanto, ma insomma questo giudice, il capo della Corte Suprema verrà annunciato, tutti i senatori saranno in silenzio, in piedi, e poi comincerà tutta questa procedura di questo dibattimento che i repubblicani vorrebbero far finire per il 4 febbraio, il giorno in cui Trump farà il discorso sullo Stato dell'Unione e racconta come è andata l'anno scorso l'amministrazione negli Stati Uniti, ed è una straordinaria occasione per Trump nell'anno elettorale per fare un super spot come sta già facendo peraltro, di quello che sta facendo, dell'economia, di Soleimani, tutte le storie che sono successe nelle ultime settimane. Sì. Ma è difficile stare in questi tempi, perché i democratici dicono che alcuni documenti della CIA o dell'NSA e alcune testimonianze non sono state non è stato possibile acquisire durante la fase istruttoria, perché in ragione di questa ostruzione della Casa Bianca, è uno dei due reati che dei due capi d'accusa. Esatto. E quindi loro chiedono più tempo, e i repubblicani, l'ultima parola ce l'hanno i repubblicani, perché lo speaker, il capo della maggioranza al Senato, è lui che decide le questioni procedurali, di concerto con il capo della minoranza, che è democratico, che è un altro senatore, ma l'ultima parola c'era lui. E quindi lui ha deciso appunto questa procedura di accelerare i tempi, che ovviamente va a loro favore, perché tiene meno possibile l'attenzione mediatica su questo processo, che alla fine, abbiamo detto più volte, non porterà molto, perché i senatori hanno una maggioranza schiacciante e ci vogliono i 2/3 dei voti per cosa complicata per far passare questo impeachment. Sì. Però Trump non vuol perdere l'occasione per rimarcare appunto perdere anche questa finestra mediatica. Quindi oggi, per dire, lui aveva Le previsioni davano questo discorso a Davos giovedì, oggi lui è arrivato lì e subito ha cominciato a parlare. Sì, ma infatti alcuni ascoltatori al 349-238-6666 dicevano: ma come, in campagna elettorale anche a Davos, anche in Svizzera, bisognerebbe ricordargli che dovrebbe farla negli Stati Uniti, ma è nel suo stile, ormai lo abbiamo capito, lo abbiamo studiato, lo abbiamo raccontato in tanti modi, tra poco lo riracconteremo, sempre con Riccardo Barlami in diretta da New York. Facciamo una piccola pausa, Riccardo, andiamo a sentire come va il traffico sulle strade italiane e poi torno da te. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ben sintonizzati, come si diceva forse una volta. Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, Nessun luogo è lontano, qui su Radio 24, in diretta da Viale Monterosa 91, ma in collegamento con New York, con Riccardo Barlam, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Un po' di ascoltatori, Riccardo, questo in realtà non ci compete più di tanto perché fanno un'associazione con quella che è la politica italiana, ma me danno il destro per farvi sentire ancora la voce di Donald Trump. Fanno un'associazione tra le vicissitudini giudiziarie di Matteo Salvini e quelle di Donald Trump. Salvini, Trump, impeachment è giunta per l'autorizzazione a procedere, perlomeno Trump ha portato risultati economici non disprezzabili negli USA, Salvini no, vabbè capita, dice così un ascoltatore. Che coincidenza temporale fra l'impeachment di Trump e la delibera di giunta nei confronti di Salvini, ma che abisso nella velocità della procedura. Inoltre entrambi ringhiano per paura delle conseguenze. Così alcuni di voi stanno tentando un parallelismo per ciò che sta avvenendo su due importanti uomini politici. Riccardo Barlam, faccio sentire la voce di Trump, perché a un certo punto a Davos davvero sembrava che stesse facendo campagna elettorale. La prima frase che ha detto è interessante perché c'è un numero contenuto dentro che è 7 milioni. Since my election, America has gained over 7 million jobs, a number unthinkable. The projection was 2 million, we did 7. Insomma, ha iniziato a dare i numeri, nel senso buono, 7 milioni di posti di lavoro. Fra l'altro, andando a snocciolare le statistiche, anche le comunità che normalmente magari si potrebbe pensare emarginate da una certa politica dei conservatori, dei repubblicani, invece ne hanno beneficiato, afroamericani, latinos, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, Riccardo Barlam ha enumerato e snocciolato numeri che sono assolutamente, buoni, che fanno ben sperare, e l'America si trova in buona salute. Sì, è così, la disoccupazione è ai minimi da 50 anni, quello che però Trump non ricorda mai che la fase positiva è cominciata nel 2016, prima delle sue elezioni con l'ultimo periodo di Obama, che peraltro è stato l'anno in cui negli ultimi 10 anni che c'è stata la maggiore crescita economica americana, è stato nell'ultimo anno di Obama. Sì. Però è vero che l'economia va molto bene, la disoccupazione è ai minimi, la borsa è sui record, tutto da vedere però quanto questo arrivi veramente nelle tasche delle grandi corporation o piuttosto del cittadino comune. Sì. Posso tornare con due o tre cose sull'impeachment, su un'altra notizia che riguarda anche invece l'Italia? Sì. Ho pensato anch'io a questa strana parallelo con Salvini, in qualche modo, guardandolo da qui, e Salvini è un po' un piccolo Trump, usa la comunicazione come Trump, è tutto sui social, e questo è evidente, l'ho visto anche quando è venuto qui a Washington qualche mese fa, e forse anche in questa comune persecuzione di una procedura giudiziaria, alla fine è un'occasione pazzesca, se ci pensate, sia per Trump che per il nostro Salvini, per avere per fare la vittima, per avere un po' di attenzione mediatica, e in questo forse spiegherei questo sostegno anche della Lega al processo Salvini, che da un lato non era tanto comprensibile, ma vista così potrebbe essere una chiave di lettura. Invece, riguardo alla procedura di impeachment, la cosa curiosa è che tutti i senatori dovranno lasciare il telefonino fuori, perché non potranno essere commentate le fasi dibattimentali sui social network, su Twitter, e quindi perché si rischia anche di inquinare, di rovinare quello che accade in aula, e quindi i messaggi, i vari senatori dovranno passarli a vecchio modo con la carta. Lo stesso i giornalisti che sono nella sala stampa non potranno avere telefonini o tablet, perché le fasi dibattimentali a porte chiuse, diciamo, si rischia di lo streaming, loro si sono arrabbiati, dicono non siamo dei bambini, di fatto sì. Prima di entrare nella sala stampa dovranno passare il metal detector. E questo è, diciamo, in questa liturgia che ci apprestiamo a cui ci prestiamo ad assistere, potrebbe essere una novità interessante anche dal punto di vista dell'impatto. Posso aggiungere un'ultimissima cosa che riguarda l'Italia in realtà, sì. E i dazi sul vino, sulla pasta e sull'olio minacciati, sì. Sembra che ci sia una schiarita, perché vi ricordate la storia della digital tax francese, gli americani che vogliono, che hanno già messo dei dazi sui vini francesi e su alcuni prodotti anche italiani nell'ambito dell'avvertenza WTO sugli aiuti di Stato ad Airbus, erano 750 milioni di dollari, non sono riusciti ad arrivare alla quota dei 750 e quindi per la quota ulteriore c'era il rischio di nuovi dazi sui vini francesi, sui sì. vini italiani di nuovo e anche sulla pasta e sull'olio. Allora a Washington stanno in queste ore negoziando. I francesi, fonti diplomatiche francesi hanno detto che c'è una schiarita su questa digital tax tra Francia sì. e Stati Uniti. Di fatto quello che viene fuori anche dagli operatori americani che ho sentito, che i distributori di vino che sono molto preoccupati, quelli americani, non quelli certo. italiani o francesi, certo. è che per il 2020 non succederà niente, quindi il vino italiano, la pasta e l'olio per il 2020 restano come sono, senza dazi, e quindi con buona pace di tutti i nostri operatori. E buona pace anche di un brindisi eventuale che Donald Trump potrebbe fare, insomma, con il vino italiano, ma facezze sì, a parte. Sì, perché lui produce vino, suo figlio, ma dicono che faccia veramente... che non sia molto buono. Che non sia molto buono, ecco. Grazie Riccardo per avere, come dire, uniformato anche il lessico. Riccardo Barlam, lo ricordo, è corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Grazie per averci dato anche quest'ultima chicca. A voi. È importante. Grazie mille Riccardo, buona serata, buon lavoro, anzi buona giornata visto il fuso orario. Siccome un po' di ascoltatori al 349-238-6666 o gli ultimi due minuti, nei giorni scorsi mi dicevano: ma questa mossa dei democratici, e un po' di voi dice, faccio anch'io un parallelo, la sinistra è sempre molto in gamba a gli avversari, perché le sinistre non accettano mai il verdetto delle elezioni e cercano di sovvertire l'esito cercando l'aiuto della magistratura, eccetera, ne sto riassumendo alcuni. Beh, alcuni di voi dicevano: ma questa procedura di impeachment sta costando un sacco alle tasche degli americani. Ebbene, ci siamo informati un pochino, la nostra Giulia Cannizzaro ha spulciato un po' di atti e ha trovato che sostanzialmente potremmo ribattezzare da qui alla fine della procedura di impeachment Donald Trump come l'uomo da 6 milioni di dollari. Che cosa intendo? Beh, che questa procedura di impeachment potrebbe essere costata al governo statunitense e quindi alle tasche dei cittadini statunitensi in tutto 6 milioni. Per il momento siamo circa 3 milioni di dollari di costo, perché dovete pensare ai funzionari che devono lavorare di più, le sedute, le procedure, eccetera, eccetera, eccetera. Giusto per dovizia di cronaca e poi chiudiamo a Davos, Donald Trump si è appuntato un po' di medaglia, ha ricordato che la fine della guerra dei dazi con la Cina, gli accordi straordinari con Messico e Canada per il commercio, il reddito che è aumentato per le classi medio-basse e rinnovata fiducia con Xi Jinping, oltre che con Boris Johnson, pronto a un grande abbraccio per il post-Brexit. Direi che ci siamo, a questo punto la parola da pronunciare è una sola ed è ordine. Ordine! Che significa titoli di coda, che significa ringraziare voi che siete stati all'ascolto e tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.